più blu, pelle, spalle, labbra, schiena, ma in fondo sembravi tu. Merce adulata da un amante scaltro, imprenditore di sogni, per tutte e per quelle prostitute belle per cui non c'è tempo da perdere, neanche un'immagine, neanche un'immagine. Con tutto il cuore farò il coglione perché piace così. Prima e dopo il telegiornale del giudizio universale. Controcorrente, la stessa corrente, ma non sembra affatto confusa. Da tutti quegli occhi truccati e pagati, pronti a cibarsi di te, della tua immagine. Immagine. Attenzione dal farti gesti da qui. Brucia in fretta amore, questa è una perla di saggezza vera, un programma. Farei anzi meglio a restarci sepolto in casa, a scordarmi di te, dentro un'immagine, dentro un'immagine. Ancora più blu, pelle, spalle, labbra, schiena, ma in fondo sembravi